primo elemento che ci sentiamo di sottolineare è il grande lavoro che hanno fatto i nostri colleghi il primo giorno e stiamo continuando a svolgere anche in queste ore. È stato un lavoro molto complicato, un intervento sicuramente complesso, come non si verificava da tanti anni, anche se sappiamo che la storia di Bologna è costellata di questo tipo di eventi. Questo evento in particolare ha messo in evidenza una forte criticità dal punto di vista della sicurezza dei trasporti. Noi sappiamo che Bologna è un nodo fondamentale per i trasporti e per la logistica di tutta la nazione. Il trasporto di sostanze pericolose in particolare espone tutta la città a questo tipo di rischio. Questa volta dobbiamo dire che tutto sommato è andata bene, sia per noi come operatori, vigili del fuoco, forze dell'ordine, sanitari, perché nessuno è stato coinvolto in maniera pesante dell'incidente. Ci sono stati molti feriti, lo sappiamo, ma fortunatamente senza conseguenze particolarmente gravi. Anche in città ci sono stati molti danni materiali di cui tutti siamo perfettamente a conoscenza, ma fortunatamente non ci sono state persone coinvolte nella città quantomeno. Ciò non toglie il fatto che comunque su questo tipo di trasporto, che è inevitabile perché nessuno può pensare di smettere di fare questo tipo di trasporto perché sarebbe impossibile, però dal punto di vista legislativo e normativo vanno aumentati i controlli. Le leggi ci sono già, le normative ci sono già, vanno assolutamente fatte rispettare e vanno assolutamente incrementati i controlli. Dal nostro punto di vista, noi su quel tratto, in generale, in tutta la provincia di Bologna, abbiamo l'esigenza di avere un presidio maggiore, quindi più personale, più presidi, più formazione, perché questi sono eventi talmente rari e talmente grandi per cui noi non siamo mai abbastanza preparati. Noi facciamo quotidianamente addestramento e formazione, ma su questo tipo di eventi c'è ancora tanta strada da fare. La formazione in particolare spesso la fate con simulazioni. Leggevo su film americani. Sì, adesso chiaramente sì, nel comunicato noi specifichiamo questo aspetto. Ci sono in rete, abbiamo questa grande risorsa che è la rete dove si trova di tutto. Sicuramente abbiamo tanto da imparare anche dal punto di vista della sicurezza, soprattutto del nostro lavoro e della prevenzione, un po' da tutto il mondo. I nostri colleghi americani e francesi sono sempre molto avanti e dedicano molto tempo e molte risorse all'addestramento e alla formazione. Ed è fondamentale. Questo è in dubbio, più formazione si fa, più addestramento si fa e meno si è poi esposti al rischio quando si va fuori a fare questo tipo di interventi. L'altro aspetto che noi abbiamo specificato nel comunicato è la tutela del personale che interviene in questi eventi, non solo in questi, in tutti gli eventi. Noi non siamo coperti dall'assicurazione dell'INAIL, abbiamo una forma di assicurazione che di fatto ci paghiamo noi di tasca nostra attraverso l'Opera Nazionale di Assistenza al Personale, però non abbiamo l'INAIL. Per cui se qualcuno di noi ieri si fosse fatto male, e fortunatamente non è successo, ma è successo in altri casi, è successo a Reggio Emilia, è successo in altri posti, i colleghi si sono trovati a dover anticipare, a dover spendere di tasca propria per le cure, per gli esami, per le terapie successive a incidenti e infortuni sul lavoro. E questo ovviamente per noi che rappresentiamo i nostri colleghi lavoratori è una situazione che è del tutto inaccettabile. Sono stati da più parti i cittadini che hanno constatato la professionalità e la prontezza con cui Vigili del Fuoco sono intervenuti. Lei prima citava anche il personale. Io ricordo che insomma avete avuto un'avvertenza per anche le dotazioni, oltre che il personale. Si è risolta, avete subito dei tagli, sono stati, come dire, reintegrati, rimpinguati i tagli effettuati? Il personale in questo momento è in fortissima carenza. L'altro giorno, quando c'è stata l'esplosione, è stato richiamato molto personale libero dal servizio che si è presentato spontaneamente, come noi siamo abituati a fare in questi casi. La fortuna, una delle varie coincidenze fortunate che ci sono state, è stata che durante il periodo estivo ci sono due squadre in più sul territorio di Bologna, che sono 9 in tutta la regione, legate all'emergenza boschiva. Quindi da questo punto di vista, almeno fino a fine agosto, siamo un po' più di giorno, perché di notte invece non ci sono, ci sono solo di giorno. Però il nostro problema di carenza di personale e anche di carenza di dotazioni a livello di dispositivi di protezione individuale non è stato risolto. No. Ci hanno detto che ci stanno lavorando, ma attendiamo i fatti, che per adesso non abbiamo visto.